Girl. Your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Di nuovo l'asilo, che stress, vabbè, Drago. E lamentati pure, questo almeno è un asilo normale, no? Normale. Vabbè, in fatto di stress è normale, perché non può concorrere con quell'asilo montessoriano di Washington che ha punito la povera bambina Zoe per essersela fatta addosso. Cioè, un mese di sospensione perché Zoe non era potty trained. Potty cosa? Potty trained, che significa abituata a usare il vasino. Si dice potty. Ma scusa, appunto. Ma vai all'asilo apposta per imparare a usare il vasino? Eh beh, no? Non all'asilo Montessori di Washington. Devi sai capire, che Montessori, sai che... Avevo uno zio, la Montessori. Sì. Si chiamava Antonio Stoppani. Vabbè. Che ha detto l'abate Stoppani. No, è una storia interessante. Un'altra volta. Vabbè, adesso stiamo parlando di Washington. No, allora, l'asilo montessoriano di Washington, cioè della nipote di questo Stoppani, devi capire, in America, no? Anche la scelta dell'asilo a volte può essere determinata. Perché se cominci in un asilo prestigioso come questo di Washington, poi continui per tutto il corso di studi a passare da una scuola prestigiosa all'altra. Solo che non basta pagare, bisogna anche essere meritevoli, la meritocrazia è estrema. Ma all'asilo? Se sei potty trained sei molto più avvantaggiato di una come la bambina Zoe che non è potty trained. Però i genitori di Zoe hanno accettato così senza protestare, senza... All'inizio sì, cioè hanno tenuto la bambina a casa pur continuando a pagare la retta mensile di $800, però poi hanno denunciato la scuola, hanno coinvolto decine di genitori nella loro protesta e quindi la cosa è diventata anche un po' di dominio pubblico. Ma il metodo Montessori è tutto basato sulla creatività, sul gioco, no? Evidentemente non è basato sul farsela addosso. Vabbè, che io sappia, non era mica così rigida la Montessori. Ti ho detto, era la nipote di Stoppani. Ma io non so, io l'ho sempre solo vista sulle banconote da 1000 lire. Lì era rigida come una mummia. Vabbè, ma quello era il ritratto della mummia della Montessori. Non lamentiamoci più della bambina Minetti, per favore, che in Russia esiste una super Minetti, altro che. Si chiama Alina Kabayeva ed è una ex ginnasta amica di Putin. La sua carriera si è sviluppata in modo molto lineare, da ginnasta di successo a cantante, da cantante un po' meno di successo a presentatrice televisiva e da presentatrice televisiva criticatissima a deputata della Duma. Quindi più andava male, più progrediva la sua carriera. Sì. Come deputata ancora nessuno ha osato criticarla, anche perché sia Putin che Medvedev la tengono sotto la loro ala protettiva. E lei è amica di tutti e due? Sembra che Putin e Medvedev condividano tutto, come Batman e Robin. Ma quindi anche il lettone della Daddario, che è di Putin, è sia di Putin che di Medvedev. Vai nel lettone di quindi Putin e Medvedev, deve dire, così è diventata la formula. Però, ad esempio, il figlio segreto di Alina Kabayeva, che già è segreto, quindi vabbè, si chiama Vladimir come Putin o Dmitry come Medvedev, cioè non lo sanno, la stampa sta facendo ricerche, non sono ancora riusciti a trovare niente. Si sa però quale sarà il prossimo scatto di carriera della bella ginnasta, perché non contenta di essere lì al Parlamento russo, si è fatta dedicare un torneo di ginnastica nazionale che si chiama appunto il Torneo Alina, e tra poco ci sarà una bambola che si chiamerà come lei, costerà €250 e avrà le sue fattezze. Ma una bambola come, scusa? Non gonfiabile, tipo la Barbie. Ah. Una Barbie russa. Una dentro l'altra. Compagni, dove siamo finiti? Il mondo intorno a noi cambiò. Nel tempo l'idea svaniti, ma la rabbia nel cor ci covò. Tutto inizia nell'89, quando Chetto le spalle ci girò, ma la fede intonsa vogliamo parlare un attimo del quotidiano Il Giornale, che bisogna dirlo è sempre molto fantasioso. Eh sì, quella lì è la fantasia al potere. Beh, è come Dio, nel sì. 68. Ma come? È il bambino deiettore, rettifico, il bambino direttore, Sallusti . È un tipico esempio di bambino creativo, dai, fantasioso, vulcanico, è incontenibile. Ma infatti dovrebbe frenarsi anche un po', perché stavolta ha fatto un titolo nelle pagine interne che se io fossi tra i diretti interessati toccherei ferro. Cioè l'apocalittico titolo è Pediatri in via di estinzione. Eh sì, come brontosauri del Giurassico superiore, i pediatri rischiano di scomparire dalla faccia della terra. Che cosa può aver provocato la moria improvvisa di pediatri? Un meteorite piombato dallo spazio? Un diluvio universale? O lo sviluppo di una nuova specie animale dominante? In questo istante sono attivi in Italia circa 15.000 pediatri. Diventeranno poco meno di 12.000 nel 2020e 8.000 nel 2025. Ma come fanno a saperlo? 2025? Guarda che lontano, eh? Ma fanno le proiezioni, no? Cioè si fanno dei film. Come cioè, si fanno dei film? Fanno le proiezioni. Si fanno i film, proiettano i film, mamma mia. Che battutona, eh sì. Questo è molto divertente. Quindi, sintonizzandoci sulla lunghezza d'onda dei nostri ascoltatori medi, ossia banalizzando, possiamo dire che se siete bambini ancora indecisi sugli studi da intraprendere, potete andare sul sicuro e specializzarvi in pediatria. O in pedagogia. Per carità, no dai, di pedagoghi come di demagoghi ce ne sono già fin troppi. No, quindi pediatria, il futuro è tutto nella pediatria. Ho capito. Anche perché ormai non esistono più adulti e quindi i medici che servono da qui in futuro saranno soltanto i pediatri e poi direttamente i geriatri. Dalla culla alla tomba. Sì. Scusai. Drago, perché mi tocchi l'ukulele? Drago, lascia stare l'ukulele. Non puoi tossire sull'ukulele. Chiedo asilo. Un pensiero di simpatia ai minatori cileni famosi, quelli rimasti sottoterra per oltre 2 mesi. 69 giorni. Abbiamo saputo dai media che quando erano sotto si faceva mandare giù un po' di marijuana, del porno, capito? Del porno, cosa vuol dire del porno? Non si sa, del quello. Porno. Insomma, del i media porno. Hanno fatto capire che forse i minatori laggiù chiedevano a gran voce muñecas gonflables, capito? Cioè, monete gonfiabili. No, drago, muñecas, bambole. Ah, bambole. Bambole scorritori dall'alto che dicevano: no, vi mandiamo le bibbie, state bravi, va bene? Yeah. E loro: ma che bibbie? Ma siete impassidos? No, muñecas gonflables y marihuana. Però per la marihuana nessun problema. Ah, no. Gliela mandata giù, sì, sì, tanta anche. Sì, tranquilli. Quindi per 60 le bambole giorni. Gonfiabili, invece, lo psicologo ha detto che è la migliore lasciar perdere. Ma perché, poveretti? Insomma, bambola gonfiabile. No, potevano crearsi delle invidie tra i minatori, delle gelosie, capito? Gelosie per la bambola gonfiabile. Cioè, potevano litigare per la bambola. Ah, certo, scusa, immaginati la scena. Calano giù la bambola. Sì. Intanto tutti i minatori sono lì che non vedono l'ora. Intanto bisogna gonfiarla. E già lì il primo chi la gonfia, perché non ci passa mica nel tutti tubo. Tutti vorranno gonfiarla e dice: io la gonfio, però poi la uso per primo. È chi la usa per primo? Quello che la gonfia, forse. Ci scappa una rissa lì, drago, già su chi la usa per primo. Ma che cosa vuol dire? Cioè, cos'è lo ius prime noctis della bambola gonfiabile? Prima o dopo cosa cambia? Cioè, ma vedi tu, se sei l'ultimo di 33 minatori infogliati giù nella miniera con la bambola gonfiabile, una bambola gonfiabile per tutti, e tu sei l'ultimo. Voglio un bel paese senza più sorprese, invece mi ritrovo come nel Kosovo. Le quartine per la sigla finale di Chiedo Asilo, sì, perché mandatele, poi la faremo dal vivo. Dal vivo, quando? Facciamo dal vivo il 22 marzo 2011 nella sede di Radio 24 alle 21. Potete prenotare mandando una mail a chiedoasilo@radio24.it per il live di Chiedo Asilo.